24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le evoluzioni politiche in Italia e in Grecia. A Roma pare avvicinarsi l'uscita di scena del premier Silvio Berlusconi, un'eventualità che piace ai mercati, mentre ad Atene si prepara il governo di unità nazionale. Se ne discute anche all'Eurogruppo a Bruxelles. Intanto la Francia vara nuove misure di rigore. Oggi vi porteremo in Belgio per parlarvi dei monaci trappisti e vi sveleremo il percorso della torcia olimpica verso Londra 2012. Italia e Grecia hanno tenuto banco nell'avvio di settimana in Europa. Tra poco vi parleremo di Atene, ma cominciamo con Roma, al momento epicentro dell'attenzione. A tenere banco ieri le indiscrezioni su un cambio di governo, con l'uscita di scena del premier Silvio Berlusconi, ma si va verso un finale thriller. Avanti fino alla fiducia, come fece il suo avversario e predecessore. Silvio Berlusconi vuole vedere in faccia chi lo tradisce, quindi non si dimette, malgrado l'altalena di voci circolate in giornata e la Lega che chiede di fare un passo indietro e di indicare un suo successore nel PDL. Ma Berlusconi avrebbe risposto: ho i numeri. Resiste quindi almeno fino al voto di domani sul rendiconto generale, poi porrà la fiducia sulla lettera dell'Unione Europea, proprio come fece Romano Prodi con Clemente Mastella. Intanto è caccia ai voti degli indecisi e dei transfughi. Roberto Rao dell'UDC denuncia. Tre di questi parlamentari hanno deciso di compiere un passaggio nelle file dell'UDC. Un parlamentare, uno dei tre, mi ha detto che aveva appena ricevuto una telefonata del Premier, ma insomma ognuno è rimasto alle sue idee. Mentre Giuliano Cazzola, uno degli incerti PDL, risponde che voterà rendiconto e fiducia, anche se è convinto che il governo ha vita breve. Mi pare comunque, insomma, che ormai non è una roba che può andare avanti molto, Giorgio Stracquadagno, uno degli autori della famosa lettera critica, vedrà invece il Premier domattina e i voti a Montecitorio si fermano, almeno per il momento, a 314 per la maggioranza. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Montecitorio. Ieri il caso Italia ha tenuto banco a Bruxelles. Il portavoce della Commissione Europea ha confermato che una missione comunitaria sarà in Italia già questa settimana. Sentiamo Amadeu Altafaj Tardio. Indeed, Italy will be part of the discussions this evening in the Eurogroup meeting. Senza dubbio, l'Italia sarà uno dei temi in discussione all'Eurogruppo di stasera. Aspettiamo di sentire dal ministro Tremonti i dettagli degli impegni contenuti nella lettera inviata all'Unione Europea e precisamente ai presidenti Barroso e Van Rompuy. Per soddisfare il mandato che è stato dato alla Commissione, abbiamo inviato un questionario a Roma, alle autorità italiane, per chiedere chiarimenti sulle misure indicate nella lettera di intenti presentata al vertice del 26 ottobre. Allo stesso tempo si chiedono indicazioni anche sul maxi emendamento. In particolare, il questionario chiede chiarimenti su tempi, azioni concrete e ricadute sul bilancio delle misure che sono state proposte. Sono essenzialmente questi gli elementi del questionario. La missione di monitoraggio della Commissione europea sarà a Roma questa settimana. Questa missione è indipendente da quella di verifica trimestrale del Fondo Monetario Internazionale, ma siamo chiaramente in contatto. Siamo autonomi, ma coordinati con l'FMI. Ma non è una missione comune. Visti i livelli record di spread, si è discusso molto dell'Italia durante il G20. Lo ha ricordato il commissario per l'economia Olli Rehn, secondo il quale Berlusconi ha presentato una serie di impegni per il consolidamento di bilancio e pensare al potenziale sviluppo che possono dare risposte positive, solo se e quando saranno applicate. La situazione dell'Italia non è paragonabile a quella della Grecia, ha aggiunto il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble arrivando all'Eurogruppo a Bruxelles. E la situazione politica italiana ha avuto forti ripercussioni sullo spread BTP Bund, risalito a fine giornata in prossimità dei massimi, dopo aver toccato il record storico dall'introduzione dell'euro, 491 punti base, in avvio di seduta il differenziale si è attestato a 485. La Banca Centrale Europea ha intanto raddoppiato gli acquisti dei titoli di Stato italiani e spagnoli la scorsa settimana, con i mercati sempre più in tensione per i sviluppi politici in Grecia e in Italia. E dall'Italia ci spostiamo appunto in Grecia, dove sono in corso intense consultazioni telefoniche con le autorità comunitarie necessarie per il premier dimissionario Gheorghe Papandreou in vista della creazione di un governo di salvezza nazionale e degli impegni di risanamento e riforme. Si attende a breve la designazione del nuovo primo ministro. Finale contrastato per le borse europee nell'attesa di novità dall'Italia. Se i principali listini continentali hanno perso punti, Milano è addirittura salita dell'1,32%. Sentiamo. Finale contrastato per le borse europee nell'attesa di novità dall'Italia, dove si sono rincorse le voci, smentite a metà giornata, sulle dimissioni del premier Silvio Berlusconi. Se i principali listini europei hanno perso punti, Milano è salita dell'1,32%. Hanno tentato di rialzare la testa le azioni delle banche, fatta eccezione però per le MPS, scivolate di oltre il 4%. La capitalizzazione dell'istituto è così piombata a 3,1 miliardi, esattamente pari al valore indicato di recente dalle autorità europee come necessario per il rafforzamento del capitale. Per contro, Mediobanca si è distinta con un progresso di oltre il 5%. Hanno rialzato la testa anche le Fiat, più 2,9%, e le Fiat Industrial, più 2,15%. Sono inoltre andate bene le Pirelli, più 2,16%, nell'attesa del piano industriale in calendario mercoledì. Mediaset ha invece chiuso invariata una seduta difficile alla vigilia della pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi. I titoli dell'azienda di broadcasting risentono del clima di incertezza politica. Intanto il mercato si interroga anche sulle mosse che la società intende compiere con la partecipata Endemol nel mirino di Time Warner. Infine sono volate del 19% le Zucchi nel primo giorno di aumento di capitale. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Innalzamento dell'IVA e delle tasse aziendali e anticipazione di un anno al 2017 della riforma delle pensioni. Sono le misure chiave annunciate dal premier francese François Fillon, che ha presentato il nuovo piano di rigore per consentire alla Francia di risparmiare 100 miliardi di euro e raggiungere l'equilibrio di bilancio nel 2016. Voltiamo pagina. Sopralluogo del commissario europeo per le politiche regionali Han a Pompei, in arrivo i finanziamenti comunitari per mettere in sicurezza il sito. Era il 6 novembre dell'anno scorso. All'alba a Pompei si sgretolò la casa dei gladiatori. Era bastata la pioggia autunnale a buttar giù una delle rovine più importanti del sito. Improvvisamente Pompei tornò alla ribalta e il suo stato di conservazione fu oggetto di polemiche. A quell'episodio eclatante ne sono seguiti altri durante l'anno. A fine ottobre 2 cedimenti di murature di epoca moderna. Ora però si punta e si spera sul finanziamento europeo. 105 milioni di euro stanziati dall'Unione. Il più grande intervento degli ultimi decenni, ha commentato il presidente della regione Campania Stefano Caldoro. Per il ministro dei beni culturali Giancarlo Galan, Pompei può contare per la prima volta su un progetto di grande respiro. Nessuna elargizione a pioggia, ma un'iniziativa di grande rilievo. Per decidere come spendere questi soldi, il commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, ha compiuto un sopralluogo insieme al ministro Galan e al governatore campano Caldoro. Faremo in modo che i lavori possano iniziare nel primo trimestre del 2012, ha assicurato il commissario europeo. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la prima volta la birra prodotta dai monaci trappisti del Belgio sarà venduta nei supermercati. Sentiamo. Producono quella che viene definita la birra più buona del mondo. Fino ad ora, per gustarla però, bisognava prendere appuntamento con loro, i 30 monaci trappisti del convento di San Sisto in Belgio, fondato nel 1831. Recarsi lì, ad orari fissi, a giorni fissi e solo dopo complicati passaggi finalmente gustarla. Adesso invece, complici i tempi di crisi e i costosi lavori di ristrutturazione del convento da sopportare, prima volta in 180 anni i religiosi hanno deciso di allargarne la distribuzione. Così la mitica birra è approdata in alcuni supermercati e in 4 giorni si è registrato il tutto esaurito. 93.000 casse vendute a tempo di record per un guadagno di oltre 2 milioni di euro. E non è finita qui. Da gennaio 75.000 casse arriveranno in Cina, Giappone, Francia e Stati Uniti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sport, il cammino della torcia olimpica da Atene a Londra, è stato presentato il percorso 12.875 km in 70 giorni a partire dal 18 maggio dell'anno prossimo. Sentiamo. Passerà dai luoghi più simbolici della Gran Bretagna, come il lago di Loch Ness o il sito preistorico di Stonehenge, e saranno 8.000 i tedofori che si succederanno per portarla in 70 giorni e per quasi 13.000 chilometri. Stiamo parlando della fiaccola olimpica per i Giochi di Londra 2012, che verrà accesa dove tutto cominciò, ad Olimpia, in Grecia, e inizierà il suo viaggio nel Regno Unito il 18 maggio prossimo a Land's End, in Cornovaglia, estremità sud-occidentale del paese, per concluderlo allo Stadio Olimpico di Londra il 27 luglio, giorno della cerimonia inaugurale dei giochi. Il comitato organizzatore, che ha annunciato la presenza delle forze di sicurezza lungo tutto il percorso, ha fatto sapere che dopo l'arrivo a Land's End la fiaccola salirà su Monte Snowdon, il punto più alto del Galles, per poi raggiungere l'osservatorio di Jodrell Bank e fare un tratto di strada in Sidecar. Infine sarà in giro per le strade della capitale britannica, fino appunto al fatidico ingresso il 27 luglio nello Stadio Olimpico londinese. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.